Radio Déjà Vu con Mary Catalano. Alright, forget them other boys, baby. Forget them other guys. Yeah, I see your nose ring. Might as well be a bullseye. I used to pull girls like you. Not in 09. You ain't a mixtape chick, baby. Had to tell me in for your time. Say hey, yo. Can you hear me? Can you hear me? One more time, say hey, yo. Can you hear me? I can make it a rain, make it a soak all night. You just give me the jam, make it a feel alright. That ass makes me wanna ooh. You know exactly what you do. I would really like to take that home. Everybody here knows she looks like sex, sex. Sex, sex, she looks like sex, sex, sex, sex. She looks like sex, sex, sex, sex. She looks like sex, sex, sex, sex. She looks like looking what I see, girl. Trying not to let it show. Let me see your brains up. You gotta let them know. I don't mean to be rude, but baby, I can break you off. You can sleep with the minimum, but I'm all night long. Say hey, yo. Can you hear me? Can you hear me? One more time. Hey, yo. Can you hear me? I can make it a rain, make it a soak all night. You just give me the jam, make it a feel alright. That ass makes me wanna ooh. You know exactly what you do. I would really like to take that home. Everybody here knows she looks like sex, sex, sex, sex. She looks like sex, sex, sex, sex. She looks like sex, sex, sex, sex. She looks like sex, sex, sex, sex. She looks like that ass makes me wanna ooh. You know exactly what you do. I would really like to take that home. Everybody here knows she looks like sex, sex, sex, sex. She looks like sex, sex, sex, sex. She looks like sex, sex, sex, sex. She looks like sex, sex, sex, sex. She looks like. Ullala, eccomi, eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi dalla voce di Mary Catalano, anche quest'oggi insieme a voi su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede, e qualche volta sì, qualche volta no, insomma comunque ci siamo. Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti voi che in questo momento siete belli pimpantelli, mi auguro almeno che sia così, già le prese con il vostro lavoro già da un bel pezzo. Salutiamo tutti quelli che in questo momento sono in macchina, guidano, e quelli che ci ascoltano tramite internet al nostro sito www.crmpiradio.it, il nostro sito dove ci seguite in streaming e potete seguire e insomma sbirciare un po' in giro per il sito per avere notizie per quanto riguarda i programmi di CRM. Se volete potete anche seguire le repliche in podcast, ci sono tutte le repliche per quanto riguarda tutti i programmi. A proposito di repliche, vi ricordo che l'appuntamento con Mary Catalano va in onda la notte, la replica a partire dalle 2. Oggi giovedì 29 marzo fa caldo, si sta benissimo, questa sì che è primavera, finalmente ci siamo liberati di quell'inverno maledetto che proprio ce ne ha portate di tutti i colori, e finalmente la bella stagione con i fiori che sbocciano, fiori, amore, insomma sboccia un po' tutto in questo periodo, sboccia anche la musica nuova nuova, quella di Gianluca Grignani e Sguardi, buongiorno ancora una volta. Ma gli sguardi della gente, ci hai mai fatto caso tu? Proprio quello che non dice, ma che sente. e poi fa finta di niente. Ha una madre che non vede, così non ci soffre più, e ad un uomo che provvede ed arriva a fine mese proprio come fossi tu. Son tutti sguardi che non parlano, ma sono proprio come te, che ti senti un'altra foglia che va finché il vento voglia. Tutti sguardi che non guardano, ma insieme chiedono perché siamo come una moneta lanciata su questo pianeta. Oh. Ma uno sguardo che non sogna, che non vede più un futuro, è un bambino che non chiede, perché ancora sai ci crede, che abbiano battuto un muro. Sono tutti sguardi che non parlano, ma sono proprio come te, che ti senti un'altra foglia che va finché il vento voglia. Tutti sguardi che non guardano, ma insieme chiedono perché siamo come una moneta lanciata su questo pianeta, come onde così, come sassi così, noi rotoliamo senza darci un alibi, come ombre così, come nuvole, noi ci troviamo. Gianluca Grignani a CRM Piredi all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano, e si intitola Sguardi, proprio il singolo che abbiamo appena sentito, il terzo estratto dal disco Natura Umana pubblicato dal cantautore milanese lo scorso ottobre. Sarà in rotazione radiofonica già penso che ci abbiamo fatto un po' l'abitudine, e naturalmente lo sentiremo, lo strasentiremo sicuramente anche questo nuovo singolo per quanto riguarda Gianluca Grignani. Intanto andiamo a sentire adesso un'altra bellissima canzone tutta italiana di questo periodo, però volevo ricordarvi i numerini per interagire con me: il 335-56-37251 il numero per gli sms, e poi non dimenticate lo 0921-92-32-92 il numero di telefono fisso, e poi non dimenticate ancora Facebook, da lì ci seguite e se volete ci scrivete, no? Perfetto. Mon ami, je ne parle bien français, je salue Amadou et Mariam. Salut. Je suis content de jouer ensemble cette chanson pour la vie de tout le monde. Soyez les bienvenus en Afrique. Soyez les bienvenus en Afrique. Ali Maya Doumambe Afrika. Sindia Doumambe Afrika. La bella vita con l'esperienza che segna il volto. Le manca il giusto nel cuore molto. La bella vita senza il delirio di onnipotenza, con la passione che rende amica la sofferenza. La bella vita che dura un'ora tra due infiniti, ti vorrò bene per sempre, sempre sono minuti. Tre, quando la belle vie, la freak, se chic. Oh, la belle vie, la freak, se chic. Oh, la bella vita, la freak, se chic. Oh, la bella vita, la freak, se chic. Oh, la belle vie. Ho nel cuore un desiderio che mi porta molto lontano, una storia senza fine che lontano arriverà. Più feroce di una leonessa, più veloce di una gazzella, più leggera di una farfalla. La bella vita all'Africa, pali mai ad un mambe Africa, segni ad un mambe Africa. La bella vita con una stella lassù che brilla, è una farfalla che si è posata sulla tua spalla. La dipendenza dall'esistenza, la leggerezza della coscienza, quando ti dice che il tempo andato non tornerà mai più. La belle vie, la freak, se chic. Oh, la bella vita, la freak, se chic. La bella vita dopo che hai perso qualsiasi appiglio, con il sudore come un diamante sul sopracciglio. La bella vita è quella che auguro ai miei amici, a chi si perde tra mille incroci, a chi l'augura pure a me. Oh, te jolie fille, l'Afrique, c'est chic. Oh, te belle dame, l'Afrique, c'est chic. Oh, la bella vita, l'Afrique, c'est chic. Oh, la bella vita, l'Afrique, c'est chic. Oh, la belle vie. On chante toutes les chansons qui nous viennent par la tête. On danse, on saute, on bouge dans tous les sens. On parle, on rigole, chez nous c'est la fête. L'Africa c'est chic. La bella vita. La bella vita. La bella vita con il sorriso a 36 denti e un po' di musica che lubrifica i legamenti. Con un amore abbastanza grande da far pensare che l'universo l'han fatto apposta perché voi due vi incontraste là. La la la la bella vita abbastanza bella da essere vita. La bella vita abbastanza vita da essere bella. La bella vita con i bambini che vanno a scuola e la fiducia che si accontenta di una parola. La bella vita senza confini, senza confini, come i bambini, come i bambini, come i bambini. La bella vita, Africa, se chic. Oh, la bella vita, l'Africa, se chic. Oh, la bella vita, l'Africa, se chic. Oh, la bella vita, l'Africa, se chic. Oh, derrière du mambe, Africa, si guignagon. La bella vita, un macandu mame Africa, mi so di ebbe Africa. La bella vita, Toroni eleve Africa, Ali Adamade adu mame Africa. Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, la bella vita. Ci piace la bella vita, ci piace la canzone di Jovanotti, la nuova canzone per lui. Intanto Jovanotti ha lanciato ultimamente Face Skin attraverso un video messaggio recapitato direttamente per l'occasione della presentazione alla Yulm del nuovo motore di ricerca ideato da Claudio Cecchetto. Il cantante, scoperto proprio dal produttore talent scout di Radio DJ, è uno degli iscritti al nuovo progetto Face Skin, non solo un motore di ricerca in realtà, ma un social network tutto nuovo che permette di condividere e organizzare i saperi, per cui c'è ad adesso anche questo nuovo network, insomma, alla quale potete accedere. Face Skin si chiama, ok? Intanto andiamo avanti col nostro appuntamento. C'è da ricordare che a mezzogiorno, dopo la fine di questo programma con me, ci sarà Carta e Penna con Filippo Glorioso, che vi intratterrà per circa un'ora sempre su CRM. Intanto ancora ben trovati anche a quelli che in questo momento soltanto si sono sintonizzati con noi di CRM, è arrivato il momento di andare a sentire la prossima canzone. Subito le vostre segnalazioni a 3355637251. Lucia, ti ringrazio per i Cranberries. Cranberries, li abbiamo visti super ospiti internazionali e hanno incantato il pubblico nella serata finale del 62esimo Festival del Sanremo. Torneranno nuovamente a Roma la prossima estate per un concerto attesissimo che promette scintille live. Esattamente il 2 luglio 2012 la band di Dolores O'Riordan, la stupenda voce dei Cranberries, sarà sul palco della cavea dell'Auditorium Parco della Musica, quindi le prevendite sono già disponibili su circuito list ticket. Intanto vi ricordo che siete sempre all'interno di Déjà Vu con Mary Catalano, sempre su CRM Happy Radio, naturalmente. CRM Happy Radio. Parte di me, ripenso alle cose che ho detto, alle frasi che ho spento e non ho saputo difendere. Ti ascolterò pensandoti e bruciano i silenzi intorno a me. Rivedo le cose che ho fatto, i momenti che ho pianto e non ho saputo comprendere. Non ho saputo ascoltare. Sento le parole che non so più cancellare, i ricordi che rivivono, non so lasciarti andare come sei. Cerco nelle cose il sorriso che tentavi di nascondere a me e agli altri e manca quando mi stringevi come sei. Cercherò ferite che ho per te, rivivo le notti che ho perso, gli errori che ho fatto, i momenti che ho infranto le regole. Sparirò tra gli altri, ma tutto mi riporta da te. Nelle cose che vivo mi chiedo com'è che è accaduto, che non ho saputo comprendere, non ho saputo ascoltare me. Sento le parole che non so più cancellare, i ricordi che rivivono, non so lasciarti andare come sei. Cerco nelle cose il sorriso che tentavi di nascondere, e manca quando mi stringevi. Come sei? Penso alle volte che mi hai detto che mi amavi, i ricordi che rivivono, non so lasciarti andare. Come sei? Dove sei? Dove Fantastica Giorgia con questo suo nuovo singolo. Un tempo era la ragazzina prodigio della canzone italiana, oggi è una donna, Giorgia, e tra breve potrebbe addirittura iniziare a meritare il classico appellativo di signora della canzone italiana. Del resto, con 20 anni di carriera alle spalle, Giorgia oggi non dovrebbe far altro che raccogliere tutto quello che di buono ha seminato e affermare una volta per tutte il suo ruolo nella scena nazionale. Giorgia straordinaria dunque ritorna con questo album pieno di belle canzoni, e questo che abbiamo sentito era il suo ultimo singolo, Dove sei, che già da qualche settimana sentiamo e ci siamo veramente appassionati a questa canzone, ci piace tantissimo. Ancora la musica che più vi piace al 3355637251 da parte di Fabio, che ci segnala Biagio Antonacci con Ti dedico tutto, dedicata a voi. Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva, e magari rubarti al tuo mondo che è pieno. Oggi sono me stesso e ti dedico tutto. Ho sentito profumi che portano nausea, ho cercato calore da chi non ne aveva, ho pregato la notte col sole finivo, sono stato un disastro per chi mi ha creduto. Tu mi hai preso la mano e mi hai detto proviamo, cosa abbiamo da perdere, tutto già scritto. Io ti ascolto sognare, io sono nel sogno, è per questo che adesso ti dedico tutto. Ti dedico tutto. Il mestiere si impara, il coraggio ti viene, il dolore guarisce, la tempesta ha una fine, ma diverso è sapere la cosa più giusta. Siamo naufraghi vivi in un mare d'amore, e viviamo pensando e scriviamo canzoni. Benvenuti nel secolo delle illusioni, ci sarà prima o poi la sentenza o il giudizio, è per questo che adesso ti dedico tutto. Ti dedico tutto. Se mi vieni a cercare mi sento più fiero, se mi metto a studiare mi sento in vantaggio. Quanta pena negli occhi chi non prova questo, sono stato davvero baciato da un dio, è per questo che vivo con molta paura. Tutto questo potrebbe di colpo finire, ma poi penso ogni cosa ha una fine sicura, quindi non me la meno e ci metto passione. La passione è la forza che lega le teste a quei corpi noiosi da spirito e luce. Se mi fermo a pensare agli errori che ho fatto, mi si spengono gli occhi, mi cerco nel sonno. Io ci credo davvero, non sei solo sesso, sei conquista e traguardo, involucro vero, dove vengo a nascondermi quando mi pento. È per questo che adesso ti dedico tutto. Ti dedico tutto. Il mestiere si impara, il coraggio ti viene, il dolore guarisce, la tempesta alla fine, ma diverso è sapere la cosa più giusta. Siamo naufraghi vivi in un mare d'amore, e viviamo pensando e scriviamo canzoni. Benvenuti nel secolo delle illusioni, ci sarà prima o poi la sentenza o il giudizio, è per questo che adesso ti dedico tutto. E arriva la primavera ed ecco che i big della musica italiana decidono di scendere in campo. È proprio il nuovo album di Biagio Antonacci ad arrivare fra poco, si chiama Sapessi Dire No ed uscirà il 17 aprile, nello stesso giorno degli After Hours, che appunto usciranno con il loro nuovo lavoro discografico. Intanto l'uscita di Sapessi Dire No sarà anticipata dalla vendita su iTunes di 3 diversi singoli che Antonacci ha deciso di svelare prima della pubblicazione integrale dell'intero album, che sono Con Infinito Onore, Qui e Dimenticarti. Intanto stamattina abbiamo sentito Ti Dedico Tutto, questo singolo che è stato segnalato al 3355637251 di CRM Piredio. Off the ground, love is the glove that keeps raining down. Where are you now when I need you around? I'm on my knees, but it seems we're going nowhere fast. We've reached a climax. Together now we're undone. We'll commit, so we choose to run away. Do we separate? Oh, don't wanna give it, so we both gave up. Can't take it back, it's too late. We reached the climax. I gave my best, it wasn't enough. You get upset, we argue too much. We made a mess of what it used to be, love. So why do I care at all? So we choose to run away. Do we separate? Oh, don't wanna give it, so we both gave up. Can't take it back, it's too late. We reached the climax. Climax. Each other separately. I just need you one more time. I can't get what we had on my mind. Where are you now? When I need you around, I'm on my knees, but it seems we're going nowhere fast. We've reached the climax. We're together, now we're undone. We'll commit, so we choose to run away. Do we separate? Oh, don't wanna give it, so we both gave up. Can't take it back, it's too late. Climax, il nuovo singolo per Usher, mi piace proprio tanto e mi sa che piace anche a voi, visto che è molto segnalato al nostro numero, il numero per gli sms, il 3355637251. Intanto Usher, il cantante di Dallas, sappiate che farà parte del cast di Hands of Stones, film dedicato al leggendario boxer panamese Roberto Duran, nel quale interpreterà il ruolo dell'ex pugile statunitense Sugar Ray Leonard. Usher si è detto molto entusiasta di questo progetto e ha già iniziato ad allenarsi per interpretare al meglio il suo personaggio. Tutto ciò senza trascurare ovviamente la musica. Infatti Usher sta anche lavorando al suo prossimo disco, che naturalmente

Certo che quando si pensa a un artista grande come Madonna, la domanda che ci viene spontanea è: ma cosa può mancare a un artista così? Niente, rispondiamo. E invece proprio Madonna ha dichiarato ultimamente che si sente imprigionata nella sua vita, pensate un po'. In una recente intervista Madonna ha fatto emergere tutto il proprio disagio a causa delle privazioni che caratterizzano la sua vita, alla luce di una fama che, a suo dire, talvolta tende a privarla delle attività quotidiane delle persone comuni. Insomma, Madonna ha raggiunto la consapevolezza di non poter fare ciò che vuole, ma riesce ad individuare una via d'uscita, una scappatoia in grado di liberarla da una sensazione così forte, cioè la possibilità di essere innamorata, quella di avere figli, può essere il giusto peso in grado di riequilibrare la sua vita. Poi per il resto si sente un po' imprigionata, un po' stressata. Vabbè, è normale che se vuoi essere sempre sulla cresta dell'onda devi comunque dare tutta l'energia, o quasi tutte, insomma, per il tuo lavoro, soprattutto una artista del calibro di Madonna. Se non si mette al lavoro, i suoi fans poi si chiedono il perché, si domandano, la cercano, insomma, alla fine lei deve dar conto se vuole appunto rimanere sempre in auge, come si suol dire. Madonna, che abbiamo sentito questa mattina con Girl Gone Wild, il suo nuovo singolo, che devo dire molto molto orecchiabile. E continuiamo con la musica, naturalmente, la musica che ci segnalate anche voi al 3355637251. Luigi ci segnala Calvin Harris con Let's Go insieme a Neyo. Ancora buongiorno, siete su CRM Happy Radio insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno, e quindi all'interno di Deja Vu, che va in onda in replica la notte a partire dalle 2, ok? Quindi nottamboli all'ascolto, buonanotte anche a voi, anche se, insomma, siamo in replica, dai, ci sta tutto. Buonanotte anche a voi e buongiorno. It's all about where you're going, no matter where you've been. CRM Happy Radio. Nickelback, la band canadese che a quanto pare negli Stati Uniti, pensate un po' chi l'avrebbe mai detto, nessuno vuole, sono odiati dal pubblico americano. È stata inventata questo flying gun che li esclude dalle ricerche sul web addirittura, pensate un po'. E la pausa musicale di 3 anni dei Nickelback, gruppo rock canadese diventato celebre nel 2001 con il singolo How You Remind Me, si sono presi dopo l'ultimo album del 2008, una bella pausetta, e non è servita però a calmare le acque. La band non è particolarmente amata dal pubblico, come dicevamo prima, soprattutto americano, tanto che un blog ha appena messo a disposizione, come dicevo, un plugin chiamato Nickelback per eliminare da ogni ricerca del web tutte le informazioni riferite al gruppo. Pensate, come riporta il sito di informazione musicale che si chiama nme.com, si tratta di una vera e propria censura, e l'icona del programma da scaricare mostra una foto della band al completo completo con gli occhi coperti da un tratto nero, dunque eliminati. Insomma, una cosa davvero che mi può dispiacere, perché comunque un gruppo che mi piace tanto, questo The Nickelback, che stamattina abbiamo ascoltato con Lullaby, questo nuovo singolo che ultimamente ascoltiamo tantissimo. Intanto l'antipatia verso il Nickelback forse va ricercata nelle ben più antiche rivalità tra statunitensi e canadesi, ma ora gli americani mettono l'odio verso la rock band su un piano molto più musicale, accusandoli di non rappresentare lo spirito del rock, ma quello di uno sporco ibrido delle musiche più artefatte mai apparse su questo pianeta. Un po' pesantucci ci sono andati. Comunque l'accusa, come dicevo, è pesante, e il web è pieno di inventive, insomma, per questo genere, per ostacolare un po' la band. Insomma, intanto c'è chi li odia, ma c'è anche chi li ama, altrimenti non continuerebbero a vendere i dischi che stanno continuando a vendere, è naturale. E come i Nickelback, qui in Italia tantissimo anche Antonello Venditti vende col nuovo album, dal quale questa mattina sentiamo Forever. Siete sempre su CRM Happy Radio, sempre insieme a America Talano, con voi sino a mezzogiorno, e vi ricordo subito dopo l'appuntamento con Filippo Glorioso e Carta e Penna, da non perdere neanche questa mattina. Lo sguardo trova sempre quello che cerca il cuore, guardando dentro me, ritrovo il tuo dolore. Io ti amerò per sempre. Tu mi dicevi allora. Ricordo le tue labbra, ridevano all'aurora. Quanto tempo fa? Tu lo diresti ancora, ora che la nostra vita va così. Voglio solo te, io lo voglio ancora, ora che il silenzio scende su di noi. Forever, io ti amerò per sempre. Tu, ti cercherò per sempre, sarò come vuoi tu. E intanto fuori cambia, c'è odore di tempesta, suoni in lontananza, la vita è quel che resta. Tu ti stringevi a me, stringimi più forte, che questa notte finirà. Voglio solo te, io lo voglio ancora, ora che il silenzio scende su di noi. Forever, io ti amerò per sempre. Cercherò forever. sta riscuotendo un grande successo Unica Tour di Antonello Venditti, che segna il ritorno sulle scene live del cantautore romano. Dopo la prima tappa romana del Pallallottomatica l'8 marzo, il tour ha iniziato un viaggio trionfale: il 27 marzo sold out a Milano al Mediolanum Forum, poi il 31 marzo sarà invece ad Ancona e poi il 12 aprile in Perugia, poi ancora a Napoli, in Bari, Roma, Rimini, ma niente date siciliane purtroppo, pazienza. E intanto, durante il tour prodotto e organizzato dalla FMP Group, Voglia di Cantare Management, Antonello Venditti propone dal vivo, a fianco dei suoi straordinari successi e dei suoi 40 anni di carriera, anche i brani dell'ultimo album pubblicato, appunto Unica. Intanto andiamo avanti. Amore, adesso puoi decidere di entrare in scena e fingere. In questo melodramma si accendono le luci, color tramonto, come il vestito che indossi per me. L'amore si fa attendere, forse nel secondo tempo, in un altro momento, ma in un momento tutto può succedere. Un battito di ali nel silenzio della vita. Salirò tutte le scale del mondo, io sarò alla fine del giorno ad aspettarti, io sarò alla fine di questo ritorno, sarò alla fine della strada che ci porta al mare. Noi siamo solo attimi da vivere così. Salirò tutte le scale del mondo, io sarò alla fine del giorno ad aspettarti, io sarò alla fine di questo ritorno, sarò alla fine della strada che ci porta al mare. E mentre Antonello Venditti va in giro per l'Italia a portare il suo tour senza passare dalla Sicilia, però invece Pino Daniele sì, ci pensa a passarci, proprio oggi è qui in Sicilia, esattamente a Catania, e si esibirà proprio questa sera di fronte alla platea catanese del Teatro Metropolitan. Il disco La Grande Madre e il tour seguono Pino Daniele e non il mercato, dunque, e così il famoso cantante con la chitarra spiega la scelta di scavalcare dopo tanti anni di carriera le staccionate delle case discografiche. Il rischio me lo prendo io, ha detto, e gli effetti di questa sorta di rivolta musicale si possono ascoltare proprio con la solenne particolarità dei suoi nuovi brani nelle tappe della sua musica itinerante. Questo era Melodramma, una canzone davvero imponente e molto tradizionale, così come le insolite ed originali La Grande Madre, è influenzata dalle melodie africane, fanno dell'album numero 26 del bluesman napoletano un progetto nuovo e innovativo che insomma seguiremo sicuramente. Intanto fortunati quelli che questa sera potranno vederlo live, appunto, a Catania. Intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento, mezz'ora in musica ancora a nostra disposizione per quanto riguarda Deja Vu. Continuiamo con Katy Perry. I was poison in your mouth. You took my Happy Radio. This money is mine. Yeah. You don't love yourself, ain't nobody gonna love you. You shit ain't right, what bitch in the right mind gon' fuck you? Yeah. That's what they told me then. So I was like, a bitch on my grind, on my shine, and time on my floated mind. Oh, now she like me, oh, now they like me. All I want is a bitch, just wanna be wifey. No three-course meal, all I want is fast food. I wanna have fun, how about a cookie? I don't love you. I just wanna unbutton your blouse and let the girls out. I wanna fuck you. Maybe later on if you're free, you can come to my house. Only if you want to. We can get freaky and freakier than you've ever been. If you want to. We can get freakier and freakier than you've ever been. From Belize, keep falling the weed. Remy crew got me sweating out a Remy weave. For mile of the night, my bitches from the bees. The beige leaves, she the project tease. Them hood bitches always bring back memories. They all catch the vapors like, yeah, yo, you remember me? I certainly do. Pull a curtain on a 6'2". For free, she on a menstrual. I promise I don't love him. I don't cuff him. I don't pay a rent to have the next. I'm a pimp with principles. Kill him with visuals. My diamonds like Dubai stars. I don't wanna love you. I just wanna unbutton your blouse and let the girls out. I wanna fuck you. Maybe later on if you're free, you can come to my house. Only if you want to. We can get freakier and freakier than you've ever been. You want to. We can get freakier and freakier, you can bring a friend. I don't want a relationship, I just wanna have fun. In every position we can come up with till we're done. At my request with the biggest in my ear, I like to hear what you're thinking after laughing and drinking. Girl, we can have a ball, yeah, we can do it all. Moonshine, light up the sky at nighttime. With me, anytime could be the right time. I'm sorta impulsive, I'm kinda explosive. Me, you take a little at a time in doses. Don't want you addicted, I just wanna kick it. You can pick the spot, I'll be there with the breakfast. Give it to you good when I'm gonna show you gon' miss. I don't wanna love you. I just wanna unbutton your blouse and let the girls out. I wanna f*** you. Maybe later on if you're free, you can come to my house. Only if you want to. We can get freakier and freakier than you've ever been. You want to. We can get freakier and freakier. You can bring a friend. Yeah. This money is mine. Sono le 11.40, mancano 20 minuti a mezzogiorno e quindi alla fine di Déjà Vu, l'appuntamento insieme a Mary Catalano con voi il giovedì, il martedì e il giovedì, questo CRM Happy Radio. Fra poco vi ricordo anche l'appuntamento con Carta e Penna dopo questo programma che state seguendo insieme a Filippo Glorioso. E naturalmente salutiamo tutti i nottambuli che in questo momento sentono in replica appunto il programma Déjà Vu qui su CRM Happy Radio alle 2 di notte esattamente. Se volete anche in podcast al www.crmpiradio.it, dove trovate appunto tutti i programmi e tutte le repliche dei vari programmi. Ok, perfetto. E se a quest'ora del mattino, anzi della tarda mattinata, vi viene un languorino, potete anche optare per la cioccolata. Proprio così, sbizzarritevi, perché sembra proprio che faccia bene e non faccia neanche ingrassare, anzi al contrario. E questo mi suscita molta molta allegria, molta felicità, perché io di cioccolata ne mangio davvero tanta. Sembra che faccia anche dimagrire. Sì. Uno studio realizzato in California spiega che mangiare cioccolato tutti i giorni farebbe non solo bene per combattere l'ipertensione arteriosa, è quello che dicevo sempre io, che fa bene, però non solo succede questo, visti gli antiossidanti che possono servire a inibire l'effetto dei radicali liberi. Insomma, non solo farebbe bene questo, ma la University of California di San Diego ha pubblicato su Archives of International Medicine i risultati dello studio secondo cui chi mangia cioccolato con continuità è generalmente più magro di chi lo fa saltuariamente. Beh, su questa cosa ci rifletto un po', perché io così magra non sono. Comunque, nonostante il suo elevato contenuto calorico, la cioccolata conterrebbe infatti ingredienti che favoriscono la perdita di peso. L'importante, naturalmente, è cibarsi di cioccolato speciale, senza grassi e con burro di cacao puro. Quindi quando comprate la cioccolata fate attenzione all'etichetta, leggete bene e c'è scritto burro di cacao. Se è così, prendetelo con sicurezza, con tranquillità, che è buono sul serio. e consumiamone tanto, eh? Soprattutto cerchiamo di non immischiare troppe cose poi, perché sennò non funziona più, ok? Per la gioia mia e di tutti quelli che amano la cioccolata, che ben venga questa bella notiziola che a quanto pare è scientificamente testata, per cui è veritiera. E andiamo avanti con il nostro appuntamento musicalmente parlando. Ci sono i Train con Drive By. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. That's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly. Hefty bang of home, I love. When you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me. Di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca. pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, parole, parole, parole. E ora penso che il tempo che ho passato con te ha cambiato per sempre ogni parte di me. Tu sei stanco di tutto, io non so cosa dire. Non troviamo un motivo neanche per litigare. Siamo troppo distanti, distanti tra noi. Ma le sento un po' mie le paure che hai. Vorrei stringerti forte e dirti che non è niente. Posso solo ripeterti ancora. Sono solo parole. Super segnalata Noemi con Sono solo parole qui a CRM Piredio al 3355637251. E in ambito di tecnologia arriva la plastica auto rigenerante. Pensate un po' che sanguina. Eh sì, un nuovo tipo di plastica che imita la capacità della pelle di autorigenerarsi. E la plastica che sanguina, fra virgolette, quando riceve un colpo e viene danneggiata, ha questa appunto ha questa particolarità, sembra sanguinare. Il nuovo materiale assume proprio questa colorazione rossa se si rompe ed è in grado di aggiustarsi da solo se viene esposto alla luce, e questo è stato presentato al congresso della Società Americana di Chimica in corso a San Diego, creato da un gruppo di studiosi della University of Southern. Davvero una idea innovativa, eccezionale. Intanto mancano solo 10 minuti alla fine di questo appuntamento e poi l'inizio di un nuovo appuntamento invece con Filippo Glorioso, che è già pronto per voi con il programma Carta e Penna il giovedì con voi come al solito a quest'ora circa, dopo mezzogiorno appunto. Intanto arriva Norah Jones, Happy Piles, il singolo che sentiamo. Buongiorno ancora una volta a tutti voi che vi siete sintonizzati da poco e godetevela questa bellissima giornata di sole. Ancora buon ascolto con Norah Jones. Trying to pick up the pace, trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away, wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel, oh how does it feel to be you right now, dear? You broke this apart, so pick up your piece and go away from here. Please just let me go now. Please just let me go. Would you please just let me go now? Please just let me go. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out of my head. Get out. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out of my head. Get out. Never said we'd be friends, trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive, makes me feel like I took happy pills, and time stands still. How does it feel to be? passing close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Two class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hips. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And no, my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Come on. Make me your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. Stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. E sono già le 12 e anche questa mattina si conclude l'appuntamento con Mary Catalano su CRM Happy Radio, il martedì e il giovedì insieme a me con Deja Vu. Oggi è giovedì, dunque ultimo appuntamento della settimana concluso, e naturalmente daremo spazio fra qualche istante anche al programma con Filippo Glorioso e quindi con Carta e Penna, che è già tutto pronto, programmato qua per voi. Fra poco, dunque, dopo l'informazione su CRM Happy Radio. Ci risentiamo la prossima settimana, vi auguro a questo punto un felice weekend, anche se ancora presto per pensarci, però siccome non ci risentiremo più fino alla prossima settimana, beh, felice weekend anche in questo caso a tutti voi che siete all'ascolto. Ciao ciao e a risentirci.